bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, vi stavo aspettando perché oggi facciamo doppiamente festa. È tornato a trovarci un grandissimo amico della nostra trasmissione, Filippo Ongaro. Ciao Filippo. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Medico, coach, divulgatore scientifico. Filippo, quante puntate abbiamo fatto insieme, che bello. Anche oggi tutti insieme appassionatamente intorno alla tavola della bufala in tavola, perché Filippo, il cibo permette di potenziare il nostro DNA o di danneggiarlo, e quindi è bene fare le scelte giuste, a partire anche dalla domenica, perché si può mangiare bene aiutando anche il nostro organismo a stare meglio. Si dice sempre inizio da lunedì, quindi domenica, ecco, scegliamo bene. Inizio da lunedì è un classico che non riusciremo mai a eliminare del tutto, però sicuramente oggi sappiamo che la nutrizione non è solo questione di calorie, ma è molto di più di tutto questo, è informazione che entra nel nostro corpo e a livello cellulare è in grado davvero di accendere alcuni geni, spegnerne altri, e il rapporto tra questi geni che si accendono, si chiama espressione genica in termini un pochino più tecnici, e quelli che si spengono definisce in larga misura la nostra salute. Quindi più che mai oggi dobbiamo acquisire una consapevolezza che il cibo può rappresentare uno degli strumenti più importanti per gestire la qualità della nostra vita nel tempo. Ovviamente non si tratta di fare solo rinunce. Bravo. Ci possono essere gli sgarri. Diciamo questo, dobbiamo acquisire un livello di consapevolezza diversa. Dobbiamo spegnere il pilota automatico e imparare a gestire la nutrizione in maniera consapevole, scegliendo alimenti corretti nella stragrande maggioranza dei casi e scegliendo e anche godendoci gli sgarri che decidiamo di concederci. Naturalmente ne parleremo nel corso di questa trasmissione, ma tu hai parlato di pilota automatico. Come facciamo a spegnerlo? Perché a volte è quel pilota automatico che ci fa fare delle scelte alimentari che non parlano nel modo giusto al nostro DNA, non lo potenziano, nuociono, ma noi non ne siamo consapevoli, cioè andiamo. Sì, o non ne siamo consapevoli o ne siamo consapevoli e ce la raccontiamo. Sì. Sono due le ipotesi, vedi, diciamo, no? Però, è vero. Però quello che diciamo a un primo livello, quello che possiamo dire è che sicuramente lo stress, l'eccesso di velocità con cui conduciamo tutti gli aspetti della nostra vita non giocano a nostro favore. Cioè noi diventiamo in larga misura inconsapevoli delle scelte che facciamo, essendo la nutrizione una parte assolutamente fondamentale della nostra vita, anche per il piacere che ci dà, è una delle aree in cui perdiamo prima il controllo. Non è l'unica. Faccio un altro esempio perché i fenomeni sono molto simili. La dipendenza da telefonino è un altro esempio di dove perdiamo il controllo, no? Siamo inconsapevoli di cosa stiamo cercando, di come lo stiamo utilizzando. Il fenomeno si assomiglia molto, cioè noi arriviamo ad un certo livello di tensione, di stress, e poi andiamo in cerca di una serie di compensi che sono in genere pescati tra le cose più facili che abbiamo portata di mano: il telefono, il dolcetto, il biscotto, la merendina alla macchinetta. Questo intendo col perdere un po' consapevolezza. Infatti uno dei rimedi principali in realtà per correggere il proprio stile alimentare non è partire direttamente dall'alimentazione, ma partire dal proprio stato psicoemotivo. Cioè, ed è qui che ti volevo, perché oggi partiamo proprio da questo, dallo stato psicoemotivo, per capire dove e cosa possiamo cambiare, come possiamo diventare più consapevoli, una parola che utilizziamo spesso, ma mi piace dire cosa possiamo fare per stare bene, perché se noi stiamo bene ci possiamo godere la vita, e sicuramente quello che mangiamo può avere un ruolo importante, anche se, come spieghi tu nei tuoi libri, nei tuoi incontri, nel tuo blog, non è solo l'alimentazione, ma anche quindi partiamo dal nostro stato psicoemotivo, che forse ci dà veramente l'indicazione, l'avvio. Sì, come dicevo prima, l'insieme di stanchezza, stress, una vita condotta sempre ad alta velocità, è qualcosa che il nostro sistema, possiamo proprio chiamarlo, il nostro sistema neurologico in senso lato, non tollera bene. Non siamo fatti per funzionare così. Non siamo fatti per avere caos, rumore, tensione. Poi ci sono delle abitudini, ad esempio, mangiare in piedi, sì. Mangiare davanti alla TV. Mangiare dalle confezioni. Mangiare dalle confezioni. Certo. Scegliere alimenti che ci gratificano molto. Tutto questo in qualche modo ci destabilizza, ma diventa routine e quindi diventa zona di comfort. Sì, anche perché c'è da tenere presente che noi biologicamente non siamo cambiati molto negli ultimi 200.000 anni, ma è cambiato l'ambiente in cui viviamo. Quindi nel momento... Sono molto vicino a Lucy. Esatto, ma no, nel momento... A parte i peli. Nel momento in cui il nostro ambiente ci permette di raggiungere cibi super buoni ad ogni angolo della strada, è evidente che la nostra capacità di controllo diventa necessariamente un po' debole, no? Cioè, in altre parole, ci costa molta più fatica oggi controllarci. Noi non siamo programmati per controllarci, perché non c'era niente da controllare in antichità. Anzi, noi siamo programmati per alzarci e andare in cerca di cibo, perché questo ci permetteva di sopravvivere. Ma c'è anche il problema opposto. Ci sono persone che sono troppo controllate. Anche, assolutamente. Sono due facce della stessa medaglia, certo, che però non ci portano lontano. Certo, perché la perdita di controllo porta a una reazione esasperata di ipercontrollo. Insomma, tante cose, tanti aspetti del nostro rapporto con il cibo sono diventati molto complessi oggi, se ci pensi. Cioè, una volta si mangiava, punto e basta, si mangiava per sopravvivere. Oggi è diventata molto complessa, al punto che sono emersi non solo i classici disturbi del comportamento alimentare, ma addirittura quelli più recenti, come l'ortoressia, per esempio, che nasce da un senso di angoscia e di ansia, no, che il cibo può in qualche modo danneggiarti, e da un desiderio eccessivo di controllare questo fenomeno. Dovremmo riuscire a semplificare il rapporto con il cibo, a renderlo più fluido e meno teso. E a scegliere i cibi giusti, quelli che potenziano il nostro DNA al posto di danneggiarlo. Parliamo proprio di questo, di quello che tu, Filippo, chiami nutrizione potenziativa. Ne parliamo tra poco, subito dopo la pausa. La bufala in tavola. Sedetevi con noi, perché sono alla bufala in tavola insieme a Filippo Ongaro, che finalmente è tornato qui in studio in carne e ossa con me e muscoli, direi, medico, coach, divulgatore scientifico. Sedetevi con noi alla tavola della bufala in tavola se desiderate potenziare il vostro corpo, renderlo quindi più dinamico, reattivo, bello e sano. Quindi stringiamoci, perché siamo in tanti ad avere questo desiderio, un desiderio comune alla maggior parte di noi, direi, Filippo, a tutte le età, e questo è sano, ok? Sì, assolutamente, è sano, ovviamente nelle proporzioni corrette, con i dosaggi giusti, ma è parte di quelli che sono dei fondamenti di una vita sana, e l'attività fisica e la nutrizione. Non è mai troppo tardi. No, non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi, e oggi parliamo di nutrizione potenziativa. Abbiamo detto che il cibo permette di potenziare il nostro DNA, di danneggiarlo. Adesso tiriamo fuori questo nuovo concetto, nutrizione potenziativa. Ne parli tu nei tuoi libri, dedichi anche un capitolo nell'ultimo libro, Il metodo Ongaro. Ma di che cosa stiamo parlando? Di una nuova dieta? Di una moda? Di qualche cosa che ci rende tutti molto più palestrati, più dinamici, più attivi? O invece che cos'è? No, io direi che è più uno stile alimentare e come appunto hai sottolineato, avendo sempre fatto sport io, ma soprattutto avendo avuto l'esperienza di lavorare nell'alta prestazione con atleti, con gli astronauti, io ho sempre trovato che fosse poco comprensibile perché non usiamo gli strumenti sviluppati in quei settori anche nella vita di tutti i giorni per certo, noi. Un po' questo nell'attività fisica è successo, Nicoletta, perché con il passare degli anni sempre di più anche le tecniche di allenamento abbastanza sofisticate, in genere dedicate agli atleti, oggi le troviamo a disposizione di tutti con le debite proporzioni. Io ho sempre trovato che nell'ambito della nutrizione non venisse fatto così e sono sempre rimasto abbastanza sorpreso di quanto si sapesse già come utilizzare i nutrienti per migliorare la prestazione nel mondo dello sport e quanto invece nel mondo appunto delle diete alla moda si discutesse di cose che trovavo abbastanza senza senso. Come ad esempio, tiriamole fuori tutte, dai. Ma non lo so, come la totale eliminazione di un alimento, per esempio, che fa parte, è uno dei punti centrali di tantissimi approcci attuali, è l'eliminazione di intere categorie di alimenti o di macronutrienti interi, no? In certo. Toto. Mai sentito una cosa del genere nella nutrizione sportiva, anzi si parte proprio dal presupposto che ogni macronutriente ha una funzione, che si impari a capire che funzione ha anche in relazione all'attività fisica che fai, ottieni il massimo dalla tua alimentazione. Quindi è un po' come un trasferimento tecnologico la nutrizione potenziativa dagli ambiti dell'alta prestazione alla vita di tutti i giorni nostra, con l'ottica sicuramente di fare prevenzione, che è una cosa molto importante, lo sappiamo, però, ma anche di avere dei benefici immediati, perché uno dei motivi per cui le persone fanno fatica ad adottare uno stile di vita diverso è che, per quanto ci credano razionalmente che un giorno ci sarà un beneficio, non lo percepiscono emotivamente subito e dunque fanno fatica a stare sul binario giusto. In realtà, quando pensiamo alla stanchezza, alla lucidità mentale, alla tua prestazione quotidiana, con un cambio di alimentazione puoi percepire immediatamente che stai meglio, oltre ad avere i potenziali benefici preventivi nel tempo. Quindi questo è sicuramente un cambio di passo, di approccio, perché come sottolineavi tu, sapere che faccio un sacrificio oggi per essere ripagato chissà quanti fra quanti anni non motiva molte persone. Invece trovare proprio nell'alimentazione, nelle scelte che facciamo tutti i giorni, lo strumento per risolvere dei problemi in tempi rapidi, disagi con cui ci misuriamo e che in qualche modo affaticano la nostra quotidianità. Tu facevi riferimento ad esempio alla stanchezza. Questo è un periodo dell'anno molto delicato perché si sta concludendo l'inverno con tutte le cose che una stagione come l'inverno porta con sé, qualche influenza, qualche ricaduta, il peso del lavoro, le giornate che sono ancora povere di luce, la primavera è lì ma è ancora lontana, noi ci sentiamo molto stanchi. Sicuramente quello che mangiamo può aiutarci a risolvere la nostra stanchezza, ma prima aiutaci tu a capire di che tipo di stanchezza parliamo, perché è tutto un po' mescolato. Stanchezza fisica e stanchezza mentale sono entrambe facce della stessa medaglia, si alimentano reciprocamente. Come fare a capirlo? Beh, allora sicuramente si associano molto spesso. Poi io dico sempre, se la percezione di stanchezza è una sensazione nuova, è bene capire da dove origina. La prima cosa sarebbe rivolgersi al medico per capire se ci sono delle ragioni organiche per cui la persona si sente stanca. Per fortuna, nella stragrande maggioranza dei casi non c'è una patologia alla base di questo, ma c'è una modalità di vivere che ti porta a percepire una stanchezza eccessiva. Può essere una mancanza di recupero, può essere il sonno che non funziona tanto bene. Diciamo che la distinzione può essere fatta in questo modo dal mio punto di vista. Sì. Hai il desiderio di fare delle cose, ma non riesci a farle per via della stanchezza, è più probabile che sia una stanchezza di tipo fisico. Se invece non hai il desiderio di fare qualcosa, è più probabile, cioè ti passa proprio l'entusiasmo, la voglia di fare, è più probabile che sia una stanchezza di tipo psicologico ed emotiva. Spesso le due cose si associano. In genere, dopo un periodo di stanchezza fisica, subentra inevitabilmente anche una stanchezza psicologica, perché ti senti sempre inadeguato e che non stai bene. Non è che la nutrizione risolve tutti questi problemi, però facciamo un esempio. Il terrore attuale che c'è nei confronti dei carboidrati, e togliere in particolare i carboidrati la sera, che è una cosa che ormai sostanzialmente tutti hanno fatto un po' perché l'hanno sentito dire, che i carboidrati la sera fanno ingrassare eccetera, può in realtà peggiorare il sonno. Peggiora il sonno, tu rimani sempre stanco. Oppure altro esempio è quello di mangiare, di diradare moltissimo i pasti, no? Magari saltando dei pasti e mangiando soltanto un pasto principale o facendo protocolli di digiuno, eccetera. Ecco, alcuni li reggono molto male, aumenta il cortisolo, la sensazione che di stanchezza, l'ormone dello di stress, esatto, peggiora. Quindi l'idea della nutrizione potenziativa è proprio quella di prendere la base delle ricerche scientifiche fatte nel mondo dello sport e capire la funzione dei macronutrienti e spalmare questa funzione nel corso della giornata, soprattutto scegliendo bene gli alimenti. I cereali raffinati non sono uguali agli integrali, il pesce non è uguale alla salsiccia, cioè ogni alimento ha una sua funzione e può giocare un ruolo importante nella nostra salute, nella sensazione di benessere. Dobbiamo conoscerci un po' meglio e conoscere un po' meglio gli alimenti. La nutrizione potenziativa prevede di distinguere molto semplicemente gli alimenti in due categorie: quelli potenziativi, che vanno introdotti naturalmente in abbondanza, e quelli depotenziativi, che vanno considerati solo come eccezione. Li chiamiamo per nome? Sì, beh, allora si fa abbastanza presto. Quelli depotenziativi sono tutti quelli buoni. Beh, allora dai, tutte le cose allora che ti piacciono di più, Nicoletta. Spengono e dicono vabbè, no, allora scherzi ciao. A parte, sono tutti quegli alimenti che conosciamo molto bene, ma che sono industriali, ricchi di zuccheri, ricchi di grassi magari potenzialmente non sani, ricchi di sale. Questi sono alimenti che non è che devono sparire, ma non possono essere la base della nostra nutrizione. Gli alimenti potenziativi sono gli alimenti con la maiuscola, semplici, genuini: le verdure, la frutta, i cereali integrali, i grassi sani, l'olio extravergine d'oliva, la frutta a guscio. Possiamo dire la dieta azzurro, mediterranea, ci dispiace, non aggiungiamo niente di nuovo a quello che è, no? È un po' quello che tutti noi ormai abbiamo metabolizzato. La dieta mediterranea fatta bene, che non è la dieta mediterranea della pasta, della pizza, del tramezzino. Senti, del ma a me sembra di mangiare bene, mi scrivono tante volte i nostri ascoltatori, però io mi sento stanco, non dormo bene, ho una difficoltà a memorizzare, insomma mi sento un po' ingolfato. Tu parli di microcarenze, cioè che cosa sono e come posso accorgermi che pur nel suo equilibrio il mio stile alimentare non è potenziativo, quindi non mi permette di dare il meglio di me a livello fisico, a livello mentale, perché è questo il gioco. Beh, sai, può essere che pur seguendo un'alimentazione piuttosto corretta, può essere che una persona non introduca la quantità ottimale di vitamine, di antiossidanti, di acidi grassi. E che cambia da persona a persona in base all'età, all'attività fisica, o io e te abbiamo la stessa bisogno? No, sicuramente cambia, ma diciamo va chiarita una cosa: la quantità ottimale non è la quantità minima per evitare una patologia. Ecco, oggi, questo concetto vorrei che tu ce lo spiegassi bene, è molto importante, è molto nuovo. È nuovo nel senso che se ne parla poco. Sì. Perché in realtà uno dei primi a parlarne è stato Zent Gheorghi nel 37, premio Nobel per la ricerca sulla vitamina C, e lui già allora disse: attenzione, che il fatto di non avere uno scorbuto, per esempio la carenza totale di vitamina C, non equivale ad avere i valori ottimali. E questa è una cosa che è sempre stata un po' messa in disparte, cioè il fatto che tu non sviluppi una patologia grave da carenza non è un'indicazione che tu abbia i valori ottimali. Le indicazioni infatti esistono appunto queste microcarenze croniche che non sono mai sufficienti a sviluppare una vera patologia, ma possono bastare ad avere piccoli sintomi. Sono un po' una ruggine che in qualche modo mi permette di non dare, cioè non mi permette di dare il meglio. Quali sono quelle più frequenti e come faccio a scovarle? Beh, allora, lì bisognerebbe, diciamo, la maniera migliore sarebbe quella di avere dei dosaggi di laboratorio, cosa non semplice, costosa, difficile da ottenere, ma anche semplicemente ascoltandosi si capisce, e questi piccoli sintomi di cui stiamo parlando, per esempio la stanchezza, non sono cose da trascurare completamente. Del resto, questo anche in ambito medico lo si conosce da tanto, una delle prime cose che si fa con la percezione di stanchezza è che il medico ti dà infatti le vitamine del gruppo B, non a caso, no? Sì. Ecco, queste microcarenze, io sono molto contrario ai dosaggi elevati anche di integratori, perché trovo che siano non necessari e debbano essere utilizzati su una prescrizione specifica. A volte, fai da te. Sì, a volte basta un dosaggio molto basso nell'integratore per però compensare quella piccola falla che giorno dopo giorno crea un deficit a livello metabolico, e comunque il primo passo rimane mangiare meglio. Questo è il primo passo sempre. Una nutrizione potenziativa che aiuta il nostro organismo a lavorare bene, perché il nostro organismo è saggio e sa difendersi e sa autoripararsi. Parliamo di nutrizione potenziativa anche per chi naturalmente affronta degli sforzi importanti. Pensiamo agli atleti, scendo un pochino di livello. Parliamo, loro hanno sicuramente tutto uno staff, gli atleti professionisti che si occupa dell'atleta. Noi parliamo degli sportivi amatoriali, di quelli appassionati che ogni giorno si allenano, e tra poco un amico straordinario con la passione del running, un amico che portiamo tutti nel nostro cuore, che è un amico che fa parte di un trio che anche a te piace molto e a tutti noi. A tra poco. Radio 24 vi accompagna in tutte le vostre passioni. Ogni domenica pomeriggio con Passione Domenica, la domenica che ami vivere. Passione Domenica. Si inizia alle 14.30 con Passione per gli altri, cronache dal sociale raccontate da Cristina Carpinelli in Diario di un giorno. Alle 15, Passione in viaggio. Valeria De Rosa vi porta in giro per il mondo con Globetrotter. Alle 15.30 è l'ora della Passione in verde, con Roberta Pellegatta e il suo giardino segreto. Alle 16, con tuta e scarpe, inizia Passione in movimento. Si parte in bicicletta con Alessandra Schepisi in A ruota libera, poi di corsa con Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino in Personal Best. E infine, con Passione in gioco, Dario Ricci vi racconta i miti e le verità dello sport in Olimpia. Alle 17, al via Passione in campo. La cronaca delle partite in diretta con Carlo Genta, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano in Tutti convocati. E per chiudere, alle 19, Gegè Telesforo e il suo soundcheck vi aspettano in Passione Musica. Passione Domenica con Radio 24. La domenica che ami vivere. Radio 24. La passione si sente. La bufala in tavola. Aggiungiamo un posto a tavola per un amico. Vi dico solo questo, lo indovinate subito, che odia l'estate e ama correre. Filippo, dai, lancialo tu. Beh, abbiamo qui con noi piacere e l'onore Giovanni Storti. Eccolo. Oh, qui del tutti, trio. Eccomi qua del trio il solitario, insomma. Del trio solitario, quello che corre. Senti, quello che corre, che si difende più che corre. Beh, mi sembra che tu corra abbastanza forte, come va forte il vostro ultimo film. Ma pensa, ah, che dov'è? Mi vengono le paroline, non ho neanche ancora mangiato, non ho neanche ancora fatto nulla di quello che noi oggi stiamo raccontando. Giovanni. Bene. Dimmi, io sono pronto a qualsiasi evenienza. No, io ti ho comunque il titolo Odio l'estate non è la verità, diciamo che si parte odio l'estate, ma in realtà tutti amiamo l'estate, questa è la verità. E tu in modo particolare, oltre che amare l'estate, ami molto correre, hai scritto anche dei libri, niente, certo. Panico, si continua a correre. Certo, mi piace soprattutto correre in natura, ecco, questa è la mia caratteristica. Andare in giro per monti, deserti e cose del genere, che la natura ti dà energia, capisci? L'asfalto no, questa è la verità. Questa è la verità, e su questo concorda anche Filippo Ungaro, che sì, oggi ci sta parlando di nutrizione potenziativa, ma per potenziare la nostra salute, stare un po', no, in degli ambienti naturali, come suggeriva Giovanni, pensiamo agli alberi che ti danno un'energia, i boschi. Questo ci piace. Beh, poi devo dire che negli ultimi anni c'è una grande riscoperta scientifica di cose che l'uomo ha sempre un po' intuito, no? A partire dalla meditazione o dagli effetti terapeutici dello stare in natura, e questo trovo che sia molto bello, perché la scienza sta dando delle letture anche più profonde dei meccanismi che permettono questo tipo di risposta, e indubbiamente fare attività fisica, nello specifico correre, in mezzo alla natura rispetto all'asfalto di un marciapiede di una strada, beh, è chiaro che è una sensazione e probabilmente anche un effetto del tutto differente. Giovanni, Filippo Ungaro ha parlato di meditazione. Io ho letto in una tua intervista in cui tu dici che dopo, fino a 55 anni andava benissimo, dopo mi sono accorto che la mente ti fa andare più di quanto il tuo corpo possa permetterti. Questo purtroppo è vero, perché se non si degrada clamorosamente, un po' si degrada chiaramente, però la mente tende a tenerti sul ricordo, quindi dice correvi forte, devi correre ancora forte, ma il corpo ti dice invece no caro, quello che ti dice la mente non è sempre vero. Quindi sicuramente la meditazione aiuta tantissimo, perché ti dà più consapevolezza di quello che sei, di quello che hai attorno. E poi la natura, beh, cioè la scienza scopre sempre dopo migliaia di anni quello che in realtà abbiamo sotto gli occhi e non riusciamo a vedere. Che la natura, insomma, siamo parte della natura, siamo nati da lì, quindi è chiaro che se stai in un bosco, corri in un bosco, in natura, è tutta un'altra cosa. Senti, la ricetta è quindi natura, meditazione intesa un po' come consapevolezza, e però Giovanni, bisogna mettere anche qualcosa nel nostro piattino, perché dato che oggi parliamo di nutrizione potenziativa con Filippo Ungaro, tra l'altro lui si è occupato di atleti ma anche degli astronauti, che poi alla fine io ho avuto qua a Nespoli, sono degli atletoni, ma questo chiudo la parentesi, non voglio. Giovanni, ma tu ad esempio che corri e quindi che hai questa passione, sei un runner, uno sportivo amatoriale, molto sportivo più che amatoriale, hai delle attenzioni particolari alla tua dieta, che cosa porti in tavola? Vuoi fare una domanda? Ti serve sfruttare, scrocchiamogli un'indicazione a Filippo. Diciamo che lui sa tutto, io pendo dalle sue labbra, potrei fargli una domanda se anche secondo lui i cibi che danno energia, cioè quelli che sono diciamo che vibrano, sono quelli più indicati per poter stare in salute, cioè quelli che senti, che tu senti come cibi che ti danno energia, questo intendi? Ma particolarmente i vegetali, la frutta, tutti i cibi non lavorati che hanno... Beh, senza dubbio c'è una differenza secondo me molto profonda, e devo dire che come per qualsiasi diciamo macchina, se vogliamo così chiamare anche il corpo, scopri queste cose più lo metti sotto stress, e l'attività fisica serve anche a questo, no? Ti porta vicino al tuo limite e ti accorgi di cose che magari a riposo non noti. Dunque, nella persona che poi peraltro magari fa un altro lavoro, un altro mestiere altrettanto impegnativo, il fare attività fisica ad un certo livello richiede una cura della nutrizione che parte, secondo me giustissimo, da una scelta di alimenti genuini, semplici, poco lavorati, che sono quelli che la natura ci regala e sono effettivamente quelli di cui il corpo poi alla fine ha bisogno, ecco. Cioè, se non restituisci al corpo quello che gli togli attraverso l'attività sportiva, ti si ritorce contro. Ma Giovanni, tu sei uno attento? Io sono uno molto attento, sì, assolutamente. No, lo dici seriamente? No, lo dico seriamente. Sono quasi vegetariano, mangio cibi integrali, mangio verdura, frutta, non mangio niente di lavorato, di insaccato, tutti i cibi preparati non mi interessano, perché ho scoperto, già ero in questa metodologia, però andando appunto a correre così, scopri che quando mangi quelle cose che sono lavorate eccetera, senti che l'energia se ne va, anzi se ne va veramente, e quindi invece quando mangi sano il corpo risponde in un altro modo, non c'è storia, insomma. Non c'è storia e ha un significato vero, Filippo, quello che abbiamo detto, sì. Perché il cibo manda dei segnali, parla. Sì, ma quello che è interessante è appunto che questo meccanismo viene a galla quando metti l'organismo sotto stress, quindi nell'atleta sicuramente lo noti di più, nell'astronauta, eccetera, ma non è che non funziona per gli altri, è che gli altri se ne accorgono molto meno. Ecco, la chiave di volta, no? È che anche la persona che non necessariamente fa sport a questo livello può trarre un grande beneficio. È chiaro che lo sentirà un attimo meno, come sente meno l'effetto negativo del mangiare degli alimenti che sono sbagliati. E mi incuriosiva anche moltissimo il punto di vista che ha espresso prima Giovanni sulla mente, no, che ti porta ad andare oltre la soglia di tolleranza del corpo, e questo è un bellissimo esempio di come la mente sia abitudinaria, e se tu hai l'abitudine mentale a vederti correre in un certo modo a una certa velocità, tenderai a ripeterla, così come è un'abitudine chi si ritiene pigro e continua a reiterare la pigrizia come modalità operativa. Chiaro che nel caso appunto di Giovanni poi ci si scontra con il passare del tempo, con il logorio dei muscoli e delle articolazioni, e con una mente che invece ti dice no, tu devi andare a quella velocità lì. Quindi è molto bella l'acquisizione di consapevolezza, anche di dover dire mi devo conoscere un po' più a fondo. Insomma, è una sorta di pilota automatico che sa dove andare. Sì. Un pilota automatico di quelli bravi, Giovanni. Sì, che però ogni tanto bisogna controllare. Sì. Appunto, come diceva l'esimio, bisogna fargli anche capire che il tempo passa, e quindi la consapevolezza è una delle prime cose, delle prime situazioni che devi affrontare, perché sennò ti scassi molto facilmente a una certa età. A una certa età, che poi è comunque una bella età. Sì, una bella età, però insomma, diciamo che sarebbe più un'età per andare a fare trekking più che andare a correre. Il mio corpo mi manda dei segnali. Vedi, il tuo corpo è saggio, il tuo corpo che tu nutri adeguatamente, non solamente con quello che porti a tavola, ma anche con la meditazione, che è uno degli ingredienti dello stile di vita che tu proponi anche nei tuoi libri. E quindi, insomma, passetto dopo passetto continuiamo ad andare lontano. Grazie Giovanni per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Buona giornata, buona domenica. Filippo, diamo un'indicazione agli amici che ci stanno seguendo, che proprio anche oggi si sono allenati, che si allenano con regolarità, perché abbiamo anticipato che la nutrizione potenziativa ha tra i vari obiettivi proprio quello di migliorare le performance. Un consiglio e una raccomandazione, qualche cosa da evitare? Segnaliamo magari un inciampo, un errore su cui frequentemente cadono le persone che si allenano e quindi hanno anche un buon rapporto con il proprio corpo, con la fatica, col superamento dei limiti, ma tutti sbagliano. Beh, un errore che io vedo piuttosto frequentemente è quello di saltare i pasti o saltare gli spuntini anche quando stai per fare attività fisica. E lì la problematica è che se stai cercando una prestazione più alta, dunque un allenamento intenso, questo è controproducente e non farà altro che portare il tuo organismo a sacrificare capacità muscolare per produrre energia, cioè è un meccanismo di cannibalismo, se così vogliamo dire, in cui l'organismo distrugge muscoli per produrre energia, e questo è controproducente a lungo termine. L'unico caso in cui l'attività fisica può essere affrontata a digiuno è quello del dimagrimento, ma in questo caso si tratta di un'attività fisica molto più blanda, non finalizzata al migliorare la prestazione. Questo, devo dire, è un errore piuttosto frequente. L'altro, diciamo, suggerimento che si può dare è... Allora, ci aspettiamo per il suggerimento. Sì. Li teniamo lì, il suggerimento di Filippo Ungaro dopo la pausa. State lì, mangiatevi qualcosa. La bufala in tavola. Eh sì, attenzione, concentratevi e soprattutto state attenti, memorizzate il consiglio di Filippo Ungaro, che è qui in studio con me alla tavola della bufala in tavola, medico, coach, divulgatore scientifico. Ma Filippo, tu hai promesso anche di dare un'altra raccomandazione. Qual è? Ma la raccomandazione, secondo me, quella nutrizionale, direi, è di capire bene il ruolo dei macronutrienti, ossia proteine, carboidrati e grassi. Proteine per strutturare i muscoli, carboidrati per avere energia a rapida disponibilità, grassi per avere energia a lungo termine. E da un punto di vista della nutrizione sportiva sono tutti e tre molto importanti. Il suggerimento che mi sento di dire a lato, diciamo, della nutrizione riguarda invece il recupero. Perché siccome l'atleta amatoriale, diversamente dall'atleta professionista, ha probabilmente un lavoro, deve fare tante altre cose nella vita quotidiana, facciamo attenzione a non prendere i carichi di lavoro dell'atleta professionista e dire ah, lo faccio anch'io perché lui vince, perché magari ha 20 anni in meno di te e fa solo quello di lavoro. Sì. Quindi non montiamoci la testa. Sì, e diamo spazio sufficiente al riposo e al recupero e prima di tutto al sonno. Perché se poi appunto si finisce col inserire ore e ore di allenamento in aggiunta a un lavoro stressante che dura tante ore, agli impegni familiari eccetera, diventa veramente un tour de force che non è assolutamente detto che faccia molto bene. Quindi cerchiamo di capire che cosa ci serve, e la tendenza molto spesso nello sportivo è di credere che la quantità sia più importante della qualità. In realtà è il contrario, anche nell'allenamento vale molto di più la qualità di un allenamento che la sua durata. Allora, diamo spazio al recupero, Filippo, ma che ne dici se noi facessimo una sorta di decalogo per una corretta alimentazione, proprio le basi, a beneficio delle persone che sono impegnate in un'attività sportiva con una certa frequenza e una certa intensità, ma anche a beneficio di tutte le persone che vogliono attraverso un'alimentazione equilibrata, noi oggi abbiamo parlato di nutrizione potenziativa, vedere i risultati velocemente e quindi magari prepararsi ad essere più brillanti, a ridurre quel senso di fatica, a dormire meglio, a mettersi nelle condizioni di godere la vita, diciamo così, che è la cosa più semplice. Allora, iniziamo? Proviamo? Dai, sì. Noi siamo pronti. Ma io il punto numero uno metterei un classico per il lavoro che abbiamo svolto assieme io e te, quello di ridurre il carico glicemico, che vuol dire stare molto attenti ai quantitativi di zuccheri e ovviamente scegliere quando si vuole assumere un dolce, ma sceglierlo con consapevolezza, cercare di toglierli dalla giornata quotidiana e sostituire invece i cereali raffinati con quelli integrali, che grazie alla presenza di fibra permettono di avere un effetto molto meno brusco sulla glicemia e sulla produzione di insulina. Passiamo al secondo consiglio, che è un classico. Il secondo, diciamo, possiamo anche un po' estenderlo, sarebbe dare la giusta importanza alla prima colazione, che troppo spesso invece saltiamo, facciamo in maniera molto minimalista, no? Tipicamente facciamo il contrario di quello che tutti i nostri nonni ci hanno sempre detto, no? Colazione da re, pranzo da principe e cena da poveri, facciamo invece il contrario. Quindi la colazione è uno spazio più ampio, ma aggiungerei anche, e quello è il punto numero tre, distribuire proprio le calorie bene nel corso della giornata, cioè evitare di concentrare l'apporto di calorie attorno a un unico pasto, specialmente se questo pasto è la sera. Quindi la colazione è importante, poi snack, pranzo, snack, cena, e andando a calare. Ma quando mi dici snack, che cosa... Può essere anche semplicemente un frutto, può essere una piccola manciata di frutta a guscio, per esempio, di noci, di mandorle, pezzo di pane integrale, e chiaramente non è la merendina e il pacchettino di biscotti. Ecco, certo. Questo dovrebbe rientrare nell'eccezione, quello, insomma. Quindi facciamo questi snack che ci permettono anche di arrivare a cena, no? Con una fame che possiamo gestire. Poi c'è lo stress. Lo stress non è ovviamente un tema direttamente connesso con la nutrizione, ma è la ragione numero uno per cui andiamo in cerca degli sgarri con troppa frequenza. Quindi se riusciamo a lavorare a monte e a spegnere un po', no, abbassare un po' i giri del motore, questo si ripercuote positivamente anche su come mangiamo. Tecniche ce ne sono tante. Non è vero che lo stress non si può eliminare, dalla meditazione al training autogeno, alle passeggiate in natura, a scrivere il diario. Ci sono mille modi con cui ti puoi alleggerire dal carico dello stress, basta iniziare a crederci sul serio. connesso allo stress è la velocità con cui mangiamo. Eccola perché lì. Mangiare molto velocemente purtroppo blocca i meccanismi della sazietà e ci fa perdere controllo. Quindi dobbiamo rallentare il modo in cui mangiamo, ma quello è frutto di quanto stressati siamo. Ecco, noi non ci rendiamo conto di quanto mangiamo con avidità, forse non mastichiamo neppure, invece poco. Le nostre nonne, le abbiamo citate tante volte, dicevano che la prima digestione avviene in bocca, ritornare, anche se è molto difficile, perché è sempre un gioco di consapevolezza. Ecco, a masticare un pochino più a lungo, oltre che a permetterci di assaporare meglio i cibi, riduce, può aiutarci anche a diventare più consapevoli. E quindi chiaro, poi lì dipende anche dall'alimento, Nicoletta, perché ovviamente è tutto connesso. L'alimento super raffinato, metti un bel pezzo di pane integrale genuino, è ben più duro di un panino super morbido totalmente raffinato. Quindi anche là la scelta poi si ripercuote su quanto mastichi o no, quindi è tutto connesso, no? Poi è importante non mangiare prima del sonno. Ecco, su questo spendiamo un minutino in più. Non mangiamo prima del sonno. E invece questa è un'abitudine abbastanza frequente. Ceniamo, guardiamo la TV o ci mettiamo a fare dei videogiochi. Poi prima di andare a dormire sentiamo magari un languorino e qualche cosa di buono per spegnere quel languorino lo troviamo sempre. Che cosa ci racconta questo bisogno e perché lo inseriamo in questa sorta di decalogo del mangiare sano, di evitare di mangiare prima del sonno? Beh, perché chiaramente l'organismo ha dei meccanismi preconfezionati che hanno una logica, quindi la preparazione al sonno prevede, chiamiamolo, uno spegnimento del metabolismo. Se tu lo riaccendi succedono due cose: da un lato probabilmente peggiori la qualità del sonno, ma dall'altro attivi dei meccanismi relativi al metabolismo che non sono previsti per la notte. Cioè quelle calorie che mangi prima di andare a dormire molto difficilmente servono all'organismo, no? Quindi magari ci si priva dei carboidrati la sera pensando che ci facciano ingrassare e poi ci rimane fame e ci accontenti, no? Cerchiamo di colmare il buchino che ci viene la voglia di qualcosa con lo snackino. E per chiudere, allora, Filippo, quale altra raccomandazione possiamo fare? Quale altro input diamo agli amici della bufala in tavola? Ma io direi veramente un punto centrale per me è diventato lavorare su questo aspetto dello stress e della consapevolezza, perché vedi, anche questa abitudine a mangiare, per esempio, prima di andare a dormire, è molto connessa a cosa fai durante la serata. Cioè, se passi la serata a vedere, non so, adesso non ho niente contro quello, ma film dell'orrore, per dire, non so quanto poi tu abbia quel rilassamento che serve per andare a dormire o quanto invece tu cerchi un bel compenso con un gelato o un dolce. Quindi ogni aspetto della nostra vita alla fine è interconnesso, non dobbiamo vederlo in isolamento, e cambiare stile di vita significa prima di tutto riprendere in mano la propria vita con delle scelte consapevoli, intelligenti, che ci fanno stare bene non solo in quell'istante, ma sempre. Grazie Filippo Ongaro per essere stato con noi in questa domenica di febbraio. Grazie, torna presto a trovarci. A io ringrazio Roberta in regia, la parte tecnica, Laura in redazione. Vi aspetto come sempre domani alle 6:10, 6:15 per un buon risveglio. Una buona domenica dalla vostra salutare ossessione quotidiana, detta la Nico. Se volete parlare con me, 349-238-6666, mandate un messaggio vocale via WhatsApp e noi risponderemo alle vostre domande, ai vostri dubbi, vi metteremo in contatto con i nostri esperti. Buonissima domenica!